Questo è un podcast di Rivista Militare. I pirati del Mar Rosso, gli Houthi e la loro strategia, di Giampaolo Cadalano. Tramontato il mito di brigantini e columbrine e sbiadito almeno in parte il sogno di forzieri colmi di dobloni d'oro, il fascino del pirata resta ancora, ai giorni nostri, legato a un'immagine cavalleresca, quasi da gentiluomo coraggioso e pronto a battersi per la giustizia. È una narrazione che difficilmente trova riscontro nella storia, se non in quella raccontata da Hollywood. Ma forse è proprio per assecondare la leggenda che quest'estate gli Houthi, senz'altro gli interpreti odierni più attivi nella pirateria, hanno ceduto alle esigenze della tutela ambientale e hanno interrotto l'attacco a una petroliera in transito nel Mar Rosso per consentire l'intervento a squadre di soccorso in grado di evitare lo sversamento del greggio e dunque un inquinamento disastroso. La nave, battente bandiera greca, era la Sunion, carica con 150.000 tonnellate di petrolio, 1 milione di barili, ed era stata attaccata il 21 agosto scorso dai ribelli yemeniti di Ansarullah con un drone kamikaze e armi leggere. All'inizio gli stessi Houthi e altre fonti marittime avevano segnalato che la nave era stata minata, così da rendere impossibile il traino e rendere incombente l'idea di una catastrofe ambientale senza precedenti. Poi i ribelli yemeniti hanno dato il via libera all'azione di soccorso, mentre l'equipaggio veniva recuperato da un cacciatorpediniere francese della classe Orizzonte impegnato nell'operazione europea Spies. Impegnati a paralizzare il traffico nel Mar Rosso con una lotta simbolica ma estremamente concreta in nome dei palestinesi di Gaza, gli Houthi hanno scelto un gesto significativo, facendo però sapere che il salvataggio della Sunion era solo una concessione legata all'emergenza ecologica e in nessun modo significava una tregua nella loro azione militare. Per rendere più convincenti le loro argomentazioni, hanno continuato a colpire le altre petroliere di passaggio. La loro offensiva ha imposto robusti aumenti di prezzo al trasporto marittimo, sia per le compagnie, la quasi totalità, che hanno preferito la circumnavigazione dell'Africa con un percorso più lungo di oltre 5.500 chilometri, sia per le poche più temerarie che affrontano il passaggio sul Mar Rosso, costrette a pagare aumenti esponenziali delle polizze di assicurazione. E considerando che di norma il 10-15% del trasporto per mare e il 30% del traffico di container passano sul canale di Suez e dunque devono attraversare il Mar Rosso, le conseguenze sul commercio mondiale sono state pesantissime. In altre parole, gli Houthi hanno rilanciato in modo evidente lo strumento della pirateria usata in chiave militare. Contrariamente ai gruppi somali attivi al largo del Corno d'Africa e ai pirati nigeriani del Golfo di Guinea, lo scopo fondamentale del gruppo sciita non è l'arricchimento, ma una pressione politica sui paesi alleati o amici di Israele perché si adoperino per fermare la guerra di Gaza. A rendere efficace la strategia neopiratesca ci sono tre elementi. Il primo è la cura della comunicazione. Nel mondo arabo, la campagna militare dei miliziani sciiti ha suscitato consensi diffusi, tanto più di fronte alle reazioni solo verbali e del tutto inutili di gran parte dei paesi islamici rispetto alle vicende di Gaza. Il fondatore del gruppo yemenita Abdel Malik al-Houthi, secondo la rivista americana The Atlantic, potrebbe essere il personaggio pubblico più popolare del Medio Oriente. E ai ribelli sciiti non mancano le capacità propagandistiche, al punto che un giovanissimo miliziano è stato proposto in un video su TikTok come il Team Chalamet Houthi per la somiglianza con l'attore del film Dune. Il filmato con il ragazzo immortalato mentre sostiene la causa del suo gruppo sul ponte della nave catturata, la Galaxy Leader, proprietà di un magnate israeliano, è diventato virale. In più, nell'offensiva di Ansarullah, il legame con la situazione di Gaza è dichiarato al punto che gli yemeniti proclamano di essere disposti a fermare gli assalti quando Israele interromperà la sua offensiva e di voler restituire la Galaxy Leader quando Hamas lo deciderà. Gli yemeniti hanno anche trasferito al gruppo palestinese l'equipaggio catturato come possibile pedina di scambio. e secondo il Sofan Center, una think tank basata in USA e specializzata in analisi sulla sicurezza, l'approccio UTI ha permesso al movimento di attrarre nuove reclute e di dipingere il suo avversario interno, il governo della Repubblica dello Yemen, riconosciuto dalle Nazioni Unite, come uno strumento degli interessi occidentali non disposti a sostenere la sofferente popolazione civile di Gaza. Ma le tattiche comunicative sono solo il primo elemento della strategia. La propaganda di Ansarullah è efficace perché la condotta militare ha contribuito a dare alla milizia sciita un'immagine di guerrieri con pochi mezzi, ma capaci di mettere in difficoltà gli eserciti più potenti del pianeta. Il bilancio degli UTI, in realtà ben riforniti di armamenti iraniani, finora è da considerare inattivo. Dall'inizio dell'offensiva sul Mar Rosso, i guerriglieri yemeniti hanno preso di mira con missili e droni oltre 80 navi. Ne hanno sequestrata una e affondate due, con almeno 4 vittime. E le operazioni anti-UTI, dalla missione anglo-americana all'europea Spies, per ora non sono state in grado di fermare l'offensiva. La missione UE, in particolare, è stata concepita con un criterio solo difensivo, per cui si concentra sull'intercettazione di missili e droni. I piccoli UTI di fronte ai grandi europei nell'immaginario globale è Davide contro Golia, ha sintetizzato così con una sfumatura critica l'ammiraglio francese Pascal Sœur, direttore della Fondazione Mediterranea per gli Studi Strategici. Ma nemmeno l'atteggiamento americano, che contempla la possibilità di attacchi a terra, ha avuto efficacia nel dissuadere i guerriglieri sciiti. È il secondo elemento di vantaggio per i pirati UTI, il fatto che non abbiano una base fissa o altri obiettivi importanti che la tecnologia militare dell'Occidente possa colpire. È un carattere inevitabile dello scontro asimmetrico, ben sfruttato dalla leadership del gruppo yemenita. Un terzo elemento è quello che in altri contesti rappresentava un vantaggio strategico. Il fatto che l'Occidente abbia strumenti molto potenti, apparentemente troppo, quantomeno per gli scopi politici previsti. Le scelte per i pianificatori militari appaiono quasi obbligate. All'inizio del XIX secolo, quando i pirati barbareschi minacciavano la navigazione nel Mediterraneo, razziando le zone costiere e prendendo come schiavi gli abitanti, le potenze navali dell'epoca, prima il Regno Unito, poi gli Stati Uniti, la Francia e il Regno delle Due Sicilie, reagirono attaccando gli avamposti insulari, Lampedusa e Pantelleria, e i porti, Tunisi, Tripoli, Algeri, distruggendo le flotte dei pirati e spazzandone via la capacità offensiva. Ma oggi una manovra terrestre dello Yemen è fuori discussione. L'esperienza dell'Afghanistan è troppo fresca perché uno sbarco militare sia anche solo preso in considerazione. Resta la possibilità di colpire dall'alto e da lontano, senza rischiare vite di militari occidentali. Ma gli armamenti moderni sembrano non solo sovradimensionati, ma anche troppo costosi per uno scontro come quello sul Mar Rosso. Il risultato di fermare gli attacchi abbattendo missili e droni dopo il lancio, proteggendo le navi, è alla portata, insomma, ma con una spesa eccessiva. A segnalarlo con energia sono stati diversi membri del Congresso USA, che vedono con preoccupazione l'aumento delle spese per portaerei, cacciatorpediniere, incrociatori e assetti aerei schierati nel Mar Rosso per una missione il cui compimento appare ancora lontano, se non persino indefinito. Da ottobre a luglio, ha segnalato lo stesso Carlos del Toro, segretario alla Marina americana, la spesa complessiva ha superato il miliardo di dollari. La sola squadra navale della Eisenhower, schierata da ottobre 2023 a giugno 2024, ha lanciato 135 missili da crociera Tomahawk e 155 Standard, per una spesa pari a mezzo miliardo, senza nemmeno calcolare i missili aria-terra utilizzati dai jet della portaerei. La sproporzione dell'investimento è evidente anche agli strateghi di Ansarullah, che in luglio hanno lanciato contro Israele un drone più avanzato, dal valore stimabile di qualche decina di migliaia di dollari, incapace di rientrare alla base, ma capace di raggiungere e colpire Tel Aviv. L'aereo a pilotaggio remoto è esploso a bassa altitudine sopra la città israeliana, uccidendo una persona e ferendone una decina. Un missile americano utilizzato nel Mar Rosso ha un costo medio superiore ai 2 milioni di dollari. Un drone artigianale costruito nello Yemen e poco sofisticato può costare anche solo $2,000. Ma se per abbatterlo prima che colpisca le navi in transito è necessario un missile, lo scenario acquista sfumature preoccupanti per il Pentagono. Gli stati maggiori cercano di adattare gli strumenti di difesa a ogni nuova minaccia, ma l'evoluzione è senza fine. Insomma, se è un gioco di Davide e Golia, il primo resta il più agile e facilmente adattabile. E se si presenta come pirata, con l'opinione pubblica, ha una carta in più. Il podcast di Rivista Militare vi dà appuntamento al prossimo episodio.